Percorsero una lunga e stretta veranda, il cui tetto era sostenuto da pilastri finemente intagliati, ed entrarono in una sala come Wang Lung non aveva mai visto. Diverse case simili alla sua avrebbero potuto trovarvi posto e sarebbero scomparse, tanto ampi erano gli spazi e alti i tetti. Sollevando la testa in preda allo stupore di vedere le grandi travi intagliate e dipinte sopra di lui, inciampò nell'alta soglia della porta e sarebbe caduto se il guardiano non avesse afferrato il suo braccio ed esclamato: «Oh, adesso vedi di comportarti bene, e di chinare a terra la faccia in questo modo anche davanti all'anziana signora». E raccogliendosi pieno di vergogna, Wang Lung guardò davanti a sé e su una pedana, al centro della stanza. Vide una signora molto anziana, il corpo piccolo e fine, avvolto in un abito di lucente seta grigio perlato, e sulla bassa panca accanto a lei era posata una pipa da oppio accesa sopra il suo piccolo fornello. Lo guardò con i suoi piccoli occhi neri e affilati, infossati e affilati come quelli di una scimmia, nel viso sottile e rugoso. La pelle della mano che teneva l'estremità della pipa era tesa sulle piccole ossa, liscia e gialla come la doratura che ricopre una divinità. Wang Lung cadde in ginocchio e batté la testa sul pavimento piastrellato. «Fallo alzare», disse gravemente l'anziana signora al guardiano. «Questi omaggi non sono necessari. È venuto per la donna?» «Sì, veneranda signora», rispose il guardiano. «Perché non parla direttamente lui?» chiese l'anziana signora. «Perché è uno stupido, veneranda signora», disse il guardiano arricciando i peli che gli spuntavano dal neo. Wang Lung allora si riscosse e guardò indignato il guardiano. «Io sono solo un uomo grossolano». «Grande e veneranda signora», disse. «Non so quali parole usare in una tale presenza». L'anziana signora lo guardò attentamente e con assoluta gravità, come se stesse per parlare, ma la sua mano si chiuse sulla pipa di cui una schiava si prendeva cura per lei. E subito parve dimenticarsi di lui. Si chinò e succhiò avidamente la pipa un istante, e i suoi occhi smisero di essere affilati e li coprì un velo di oblio. Wan Lung restò davanti a lei fino a quando gli occhi dell'anziana signora non colsero di passaggio la sua figura. «Cosa sta facendo qui quest'uomo?» chiese con improvvisa rabbia. Era come se avesse dimenticato tutto. La faccia del guardiano era impassibile, non disse niente. «Sto aspettando la donna, grande signora», disse Wang Lung esterrefatto. «La donna? Quale donna?» cominciò l'anziana signora, ma la giovane schiava al suo fianco si chinò e sussurrò qualcosa, e la signora si riprese. «Ah, sì, avevo dimenticato per un istante, una faccenda da poco. Sei venuto per la schiava chiamata Olan? Ricordo che l'abbiamo promessa in sposa a un contadino, sei tu il contadino?» «Sono io», rispose Wang Lung. «Chiamo Alan, in fretta!» disse l'anziana signora alla schiava. Sembrava improvvisamente impaziente di liquidare la faccenda e di rimanere sola con la sua pipa d'oppio nel silenzio della grande stanza. E un istante dopo la schiava apparve tenendo per mano una figura quadrata e piuttosto alta in una casacca pulita di cotone azzurro e pantaloni. Wang Lung la guardò e poi distorse gli occhi mentre gli batteva il cuore. Era la sua donna! «Vieni qui, schiava», disse con noncuranza l'anziana signora. «Quest'uomo è venuto per te». La donna andò davanti alla signora e si fermò con la testa china e le mani giunte. «Sei pronta?» chiese la signora. La donna rispose lentamente, come un eco. «Pronta?» Sentendo la sua voce per la prima volta, Wang Lung guardò la sua schiena mentre lei gli stava davanti. Era una voce abbastanza buona, non forte, non sommessa, schietta e non stizzosa. I capelli della donna erano in ordine, lisci, e la casacca era pulita. Provò un'istantanea delusione vedendo che i piedi non erano fasciati, ma non poté soffermarvisi perché l'anziana signora stava dicendo al guardiano: «Porta la sua cassetta fuori al portone e falli andare via». E poi chiamò Wang Lung e disse: «Stai accanto a lei mentre parlo». E quando Wang Lung si fu fatto avanti, gli disse: «Questa donna è arrivata nella nostra casa da bambina, aveva 10 anni ed è vissuta qui fino a questo momento che ne ha 20. L'ho comprata durante un anno di carestia, quando i suoi genitori erano venuti a sud perché non avevano niente da mangiare. Venivano dal nord, dallo Shantung, e là sono tornati. Non so altro di loro. Vedi che ha il corpo forte, le guance squadrate della sua stirpe. Lavorerà bene per te nei campi, attingerà l'acqua e farà tutto quello che vuoi. Non è bella, ma questo non ti serve. Solo gli uomini che possono godersi la vita hanno bisogno di donne belle per il loro divertimento. Non è nemmeno intelligente, ma fa bene quello che le si dice di fare e ha un buon carattere. Per quanto ne so, è vergine. Non è abbastanza bella da tentare i miei figli e i nipoti, nemmeno se non fosse stata in cucina. Se c'è stato qualcosa, si è trattato solo di un servo. Ma con tutte le schiave graziose che corrono liberamente per le corti, dubito che ci sia stato qualcuno. Prendila e usala bene. È una buona schiava, anche se un po' lenta e stupida. E se al tempio non avessi voluto acquistare merito per la mia vita futura, portando più vita nel mondo, l'avrei tenuta. Perché è piuttosto brava in cucina. Ma faccio sposare le mie schiave se qualcuno le vuole, e se i signori non le vogliono. E alla donna disse: ubbidisci a lui e dagli molti figli maschi. Porta qui il primo figlio perché io lo veda. Sì, veneranda signora, disse docilmente la donna. Erano entrambi esitanti e Wang Lung si sentiva in grande imbarazzo, non sapendo se dovesse parlare oppure no. Bene, andatevene allora, disse l'anziana signora, irritata, inchinandosi rapidamente. Wang Lung si girò e uscì, seguito dalla donna e poi dal guardiano che portava in spalla la cassetta. La depositò nella stanza dove Wang Lung tornò a prendere il suo cesto e si rifiutò di portarla più avanti. E infatti scomparve senza una parola. Allora Wang Lung si voltò verso la donna e la guardò per la prima volta. Aveva il viso squadrato, onesto, il naso largo con grandi narici nere e la sua bocca era ampia come una ferita. Gli occhi erano piccoli e di un nero spento, pieni di una tristezza che non vi appariva chiaramente espressa. Era un viso che pareva abituato a starsene muto e silenzioso, come se non potesse parlare, anche se avesse voluto. Sopportò con pazienza lo sguardo di Wang Lung, senza imbarazzo né reazione, solo in attesa che finisse di osservarla. Lui vide che davvero nel suo viso non c'era alcun tipo di bellezza, un viso bruno, comune, paziente. Ma non c'erano tracce di vaiolo sulla sua pelle scura e non aveva il labbro leporino. Alle sue orecchie vide gli orecchini che le aveva comprato, gli orecchini placcati in oro, e alle mani aveva gli anelli che lui le aveva dato. Esultando dentro di sé, si girò dall'altra parte. Bene, aveva la sua donna. Qui c'è la cassetta e qui il cesto, disse in tono rude, senza una parola. Lei si piegò e sollevando un lato della cassetta se la mise in spalla, vacillando sotto il suo peso e cercò di rialzarsi. Lui la osservò e all'improvviso disse: prendo io la cassetta, tu tieni il cesto. E fece scivolare la cassetta sulla propria schiena, incurante del vestito buono che indossava. E lei, sempre muta, prese il manico del cesto. Wang Lung pensò alle 100 corti che aveva attraversato e alla propria figura assurda sotto quel fardello. Se ci fosse un'uscita laterale, mormorò, e lei annuì dopo aver brevemente pensato, come se non avesse capito tanto in fretta le sue parole. Poi lo condusse attraverso una piccola corte inutilizzata e piena di erbacce, con una vasca intasata, e lì, sotto un pino ricurvo, c'era un vecchio portone tondo che lei aprì levando la sbarra, e da lì uscirono in strada. Una volta o due Wang Lung si voltò a guardarla. Lei avanzava con passo sicuro sui suoi grandi piedi, come se avesse camminato lì per tutta la sua vita, l'ampio viso impassibile. Alla porta delle mura lui si fermò, esitante, e frugò con una mano nella cintura cercando le monetine rimaste, mentre l'altra mano reggeva saldamente la cassetta sulla spalla. Prese 2 centesimi e comprò 6 piccole pesche verdi. Prendi. Mangiale tu, disse rudemente. Lei le afferrò con l'avidità di un bambino e le tenne in mano senza dire una parola. La volta successiva che la guardò, mentre camminavano lungo il bordo dei campi di grano, ne stava morsicando cautamente una, ma quando vide che lui la guardava, la coprì con la mano e rimase con le mascelle immobili. E così camminarono fin quando raggiunsero il campo occidentale dove c'era il tempio dedicato alla terra. Questo tempio era una piccola struttura, in altezza non superava la spalla di un uomo ed era fatto di mattoni grigi e coperto di tegole sul tetto. Il nonno di Wang Lung, che aveva coltivato proprio i campi sui quali ora lui trascorreva la sua vita, l'aveva costruito trasportando i mattoni dalla città con la sua carriola. Le pareti esterne erano intonacate e in un anno di benessere era stato assoldato un artista di paese che aveva dipinto, sull'intonaco bianco, una scena di colline e bambù. Ma la pioggia si era riversata su quel dipinto attraverso le generazioni e ormai non era rimasta che una sbiadita e piumosa ombra di bambù, mentre le colline erano scomparse quasi del tutto. Dentro il tempio, sistemate comodamente sotto il tetto, c'erano due figurine solenni di terracotta fatte con la terra dei campi lì intorno. Erano il dio e la sua signora. Indossavano vesti di carta rossa e dorata e il dio aveva dei sottili baffetti ricurvi di peli veri. Ogni capodanno il padre di Wang Lung comprava fogli di carta rossa e tagliava e incollava con attenzione vesti nuove per la coppia e ogni anno la pioggia e la neve vi entravano e il sole estivo vi batteva, rovinando le vesti. In quel momento, tuttavia, le vesti erano ancora nuove perché l'anno era appena iniziato e Wang Lung era orgoglioso del loro aspetto impeccabile. Prese il cesto dal braccio della donna e cercò con attenzione, sotto il maiale, i bastoncini d'incenso che aveva comprato. Temeva che si fossero rotti perché in quel caso sarebbe stato un cattivo auspicio, ma erano intatti. E dopo averli trovati, li infilò l'uno accanto all'altro nelle ceneri di altri bastoncini ammonticchiati davanti agli dèi, perché tutto il vicinato venerava quelle due figurine. Poi, armeggiando con la sua pietra focaia e col ferro e utilizzando una foglia secca a mo' di stoppino, creò una fiamma con cui accese l'incenso. L'uomo e la donna stettero insieme davanti agli dèi dei loro campi. La donna osservò le estremità dell'incenso farsi rosse e poi grigie. Quando la cenere diventò pesante, lei si tese avanti e fece cadere con l'indice la capocchia. Poi, come se le fosse venuta paura per quel che aveva fatto, con occhi inespressivi lanciò una rapida occhiata a Wang Lung, ma in quel momento e in quel movimento c'era qualcosa che a lui piacque. Era come se lei sentisse che l'incenso apparteneva a entrambi loro. E fu un momento di matrimonio. Rimasero là in silenzio assoluto, fianco a fianco, mentre l'incenso bruciava trasformandosi in cenere. E poi, siccome il sole stava calando, Wang Lung si mise in spalla la cassetta e andarono a casa. Il vecchio era sulla porta di casa, a prendere su di sé gli ultimi raggi del sole. Non si mosse quando Wang Lung si avvicinò con la donna. Sarebbe stato indegno di lui farle caso, finse invece di provare un grande interesse per le nuvole ed esclamò: «Quella nuvola sospesa sul corno sinistro della luna nuova parla di pioggia. Arriverà non più tardi di domani notte». E quando vide Wang Lung che prendeva il cesto dal braccio della donna, esclamò: «E hai speso dei soldi?» Wang Lung mise il cesto sul tavolo. «Ci saranno ospiti stasera», disse brevemente. E portò la cassetta nella stanza dove dormiva e la posò accanto alla cassetta dove c'erano i suoi vestiti. Le lanciò un'occhiata strana. Ma il vecchio arrivò alla porta e disse rapido: «Non si fa che spendere soldi in questa casa». Dentro di sé era contento che il figlio avesse invitato degli ospiti, ma gli sembrava opportuno non esternare altro che lagnanze davanti alla nuova nuora perché fin dall'inizio non pensasse che avrebbero vissuto nel lusso. Wang Lung non disse nulla, ma uscì e portò il cesto in cucina e la donna lo seguì. Prese il cibo, pezzo per pezzo, dal cesto e lo mise sul ripiano della stufa fredda e le disse: «Qui c'è del maiale, qui del manzo e del pesce. Saranno 7 persone a mangiare. Sai cucinare?» Non guardò la donna mentre le parlava. Non sarebbe stato decoroso. La donna rispose con la sua voce schietta: «Sono stata schiava in cucina fin da quando sono entrata nella casa dei Huang. C'era carne a ogni pasto». Wang Lung annuì e la lasciò e non la rivide fin quando gli ospiti non entrarono tutti insieme. Lo zio, allegro e malizioso e affamato, il figlio dello zio, un insolente ragazzo 15enne e i contadini goffi e sogghignanti per la timidezza. Due erano uomini del villaggio con cui Wang Lung scambiava semi e lavoro all'epoca del raccolto e uno era il suo vicino di casa, Ching, un uomo piccolo e tranquillo che non voleva mai parlare a meno che non vi fosse costretto. Quando si furono seduti nella stanza centrale, dopo aver dato sfoggio di belle maniere, protestando e rifiutando di prender posto, Wang Lung andò in cucina per ordinare alla donna di servire il cibo e fu contento quando lei gli disse: «Ti passerò le ciotole se vuoi metterle sul tavolo, non mi piace mostrarmi agli uomini». Wang Lung sentì dentro di sé un grande orgoglio per il fatto che quella donna era sua e non temeva di mostrarsi a lui e che tuttavia preferiva non comparire davanti ad altri uomini. Prese le ciotole dalle sue mani davanti alla porta della cucina e le mise sul tavolo nella stanza centrale, dicendo ad alta voce: «Mangiate, zio e fratelli miei». E quando lo zio chiamava a fare battute, disse: «E non potremo vedere la sposa dalle sopracciglia di falena?» Wang Lung rispose con fermezza: «Non siamo ancora una cosa sola. Non sta bene che altri uomini la vedano, fin quando il matrimonio non si sarà consumato». E li invitò a mangiare. E loro mangiarono con gusto il buon cibo, con gusto e in silenzio, e uno lodò la salsa marrone sul pesce e l'altro il maiale ben cucinato, e Wang Lung continuava a ripetere: «Sono povere cose mal preparate». Ma dentro di sé era orgoglioso di quei piatti perché alla carne la donna aveva aggiunto zucchero e aceto, un po' di vino e salsa di soia e con abilità ne aveva esaltato tutta la forza, tanto che lo stesso Wang Lung non aveva mai assaggiato simili piatti sulla tavola dei suoi amici. Quella sera, dopo che gli ospiti si erano attardati, bevendo tè e scherzando, la donna era rimasta accanto alla stufa e quando Wang Lung si fu congedato dall'ultimo ospite entrò e la vide rannicchiata fra i cumuli di paglia, addormentata accanto al bue. C'era paglia nei suoi capelli quando la svegliò e quando la chiamò, lei sollevò improvvisamente il braccio nel sonno come per difendersi da un colpo. Aprendo finalmente gli occhi, diresse su di lui quel suo strano sguardo muto. E a lui parve di trovarsi davanti a un bambino. La prese per mano e la condusse nella stanza dove quella mattina si era lavato per lei e accese una candela rossa sul tavolo. In quella luce fu colto da un'improvvisa timidezza nel trovarsi da solo con la donna e fu costretto a ricordare a se stesso: «Ecco, questa è la mia donna, la cosa va fatta». E cominciò energicamente a spogliarsi. Quanto alla donna, strisciò dietro il bordo della tenda e cominciò, senza produrre suono, a prepararsi per andare a letto. Wang Lung disse bruscamente: «Quando ti corichi, spegni prima la luce». Poi si stese e si tirò la spessa trapunta fino alle spalle, fingendo di dormire. Ma non stava dormendo, tremava. Ogni nervo della sua carne era desto. E quando, dopo un lungo intervallo, la stanza cadde nel buio e Wang Lung sentì il movimento lento, strisciante e silenzioso della donna accanto a lui, lo colmò un'esultanza tale che avrebbe potuto spezzare il suo corpo. Fece una risata roca nel buio e la prese. 2. C'era quel lusso del vivere. La mattina dopo, Wang Lung era sdraiato a letto e osservava la donna che adesso era completamente sua. Lei si alzò e indossò i suoi indumenti morbidi e li strinse attorno alla gola e alla vita, adattandoli al proprio corpo con lente mosse e torsioni. Poi infilò i piedi nelle scarpe di tela e le allacciò con le fettucce che partivano da dietro. Una striscia di luce, entrando dal piccolo buco, cadeva su di lei e Wang Lung vide indistintamente il suo viso. Sembrava immutato. Ne rimase stupito. Sentiva che la notte doveva averlo cambiato, eppure questa donna si alzava adesso dal suo letto come se l'avesse fatto tutti i giorni della sua vita. La tosse del vecchio si levò lamentosa dalla semioscurità dell'alba e Wang Lung disse alla donna: «Per prima cosa porta a mio padre una ciotola d'acqua calda per i suoi polmoni». Con la stessa voce che aveva avuto parlando il giorno prima, lei chiese: «Devono esserci nell'acqua foglie di tè?» Quella semplice domanda turbò Wang Lung. Avrebbe voluto dire: «Certo che devono esserci foglie di tè. Pensi che siamo mendicanti?» Avrebbe voluto che la donna pensasse che in quella casa non facevano economia di foglie di tè. Nella casa dei Huang, naturalmente, ogni ciotola d'acqua era verde per via delle foglie. Forse nemmeno uno schiavo là beveva solo acqua. Ma sapeva che il padre si sarebbe arrabbiato se il primo giorno la donna gli avesse servito tè invece che acqua, e poi davvero non erano ricchi, perciò rispose con noncuranza: "Tè? No, no, peggiora la sua tosse." Rimase a letto, caldo e soddisfatto, mentre in cucina la donna alimentava il fuoco e faceva bollire l'acqua. Avrebbe voluto dormire ora che poteva, ma il suo stupido corpo, che aveva costretto ad alzarsi così presto ogni mattina per tutti quegli anni, pur potendo dormire, non ci riusciva. E quindi rimase lì, assaggiando e assaporando nella mente e nella carne il lusso dell'ozio. Si vergognava ancora un po' nel pensare a quella sua donna. Per una parte del tempo pensò ai suoi campi e ai chicchi di grano e a come sarebbe stato il raccolto se fosse venuta la pioggia, e ai semi di rapa bianca che voleva comprare dal suo vicino Ching se si fossero accordati su un prezzo. Ma fra quei pensieri che occupavano ogni giorno la sua mente si intrecciava, mescolandosi, il pensiero nuovo di com'era adesso la sua vita. E all'improvviso, riflettendo sulla notte, si scoprì a domandarsi se lui le piacesse. Era un interrogativo nuovo. Si era chiesto solo se lei gli sarebbe piaciuta e se gli avrebbe dato soddisfazione nel letto e nella casa. Malgrado il viso insignificante e la pelle ruvida sulle mani, la carne del suo grosso corpo era morbida, mai prima toccata, e pensandoci Wang Lung rise, quella risata breve e dura che aveva emesso nel buio la notte prima. I giovani signori non avevano visto quindi al di là del viso insignificante della schiava che lavorava in cucina, ma il suo corpo era bello, disponibile, rotondo e soffice, nonostante le ossa grandi. Ed un tratto desiderò di piacerle come marito. E poi sentì vergogna. La porta si aprì e alla sua maniera silenziosa lei entrò, reggendo con le due mani una ciotola fumante per lui. Wang Lung si mise a sedere nel letto e la prese. Foglie di tè galleggiavano sulla superficie dell'acqua. Sollevò rapidamente lo sguardo verso di lei. La donna ne fu subito spaventata e disse: "Al vecchio non ho portato tè. Ho fatto come mi hai detto, ma a te ho." E Wang Lung vide che aveva paura di lui e ne fu contento e rispose, prima che avesse finito di parlare: "Mi piace, mi piace." E portò il tè alla bocca con sonori sorsi di piacere. Dentro di lui c'era quella nuova esultanza che si vergognava di articolare perfino di fronte al suo cuore. Sì, piaccio a questa mia donna. Nei mesi successivi gli sembrò di non fare altro se non osservare quella sua donna. In realtà lavorò come aveva sempre fatto. Si metteva la zappa in spalla e si incamminava verso i suoi appezzamenti di terra e coltivava le file di grano e poi aggiogava il bue all'aratro. E arava il campo occidentale per coltivarvi aglio e cipolle. Ma lavorare era un lusso, perché quando il sole toccava lo zenith poteva andare a casa e là il cibo era pronto per lui, e la polvere era stata pulita dal tavolo e le ciotole e le bacchette vi erano state sistemate ordinatamente. Finora aveva dovuto preparare i pasti al suo arrivo, stanco com'era, a meno che al vecchio non fosse venuta fame prima del tempo e avesse messo insieme un piccolo pasto o cotto una focaccia di pane azimo da rotolare intorno a un gambo d'aglio. Ora, qualsiasi cosa ci fosse, era pronta per lui e poteva sedersi sulla panca accanto al tavolo e mangiare subito. Il pavimento di terra era stato spazzato e ricostituito il mucchio della roba da bruciare. Al mattino, dopo che lui se n'era andato, la donna prendeva il rastrello di bambù e un pezzo di corda e vagava per la campagna raccogliendo qui un po' d'erba e là un rametto e una manciata di foglie, per poi tornare a mezzogiorno con quel che serviva a cucinare la cena. L'uomo era contento che non dovevano più comprare la roba da bruciare. Al pomeriggio lei prendeva una zappa e un cesto e, reggendoli in spalla, andava alla strada principale che portava in città, dove muli e asini e cavalli conducevano carichi avanti e indietro, e raccoglieva gli escrementi degli animali e li portava a casa, ammucchiandoli nello spazio antistante la casa per potervi concimare i campi. Faceva queste cose senza dire una parola e senza che nessuno gliele avesse ordinato, e quando il giorno arrivava alla sua fine, non si riposava fin quando il bue non aveva mangiato in cucina e lei non aveva attinto l'acqua da accostare al suo muso perché bevesse quel che voleva. e prendeva i loro vestiti laceri e col filo che aveva filato lei da un batuffolo di cotone su un fuso di bambù, rammendò e riuscì a coprire gli strappi nei vestiti invernali. Portò le trapunte sulla soglia al sole e tolse le fodere esterne e le lavò e le appese su un bambù ad asciugare e passò al vaglio il cotone delle trapunte che col passare degli anni era diventato duro e grigio, ammazzando gli insetti che si erano annidati nelle pieghe nascoste e mise tutto al sole. Giorno per giorno faceva una cosa dopo l'altra finché le tre stanze assunsero un aspetto pulito e quasi prospero. La tosse del vecchio migliorò. E lui sedeva nel sole accanto al muro meridionale della casa, sempre semiaddormentato e caldo e soddisfatto. Ma la donna non parlava mai, se non per le rapide necessità della vita. Osservandola muoversi per le stanze e sui piedi grandi, con passo saldo e lento, osservando di nascosto il viso quadrato, impassibile, lo sguardo inespressivo e un po' timoroso dei suoi occhi, Wang Lung non riusciva a capirla. Conosceva di notte la morbida solidità del suo corpo, ma di giorno i suoi vestiti, la casacca e i pantaloni di semplice cotone azzurro coprivano tutto quel che conosceva e assomigliava allora a una serva fedele e muta, una che è solo una serva e niente di più. E non era opportuno che lui le dicesse: «Perché non parli?» Doveva bastare che facesse il suo dovere. A volte, lavorando sulle zolle dei campi, finiva per riflettere su di lei. Cosa aveva visto in quelle 100 corti? Com'era stata la sua vita? Quella vita di cui non gli aveva mai parlato. Non riusciva a immaginarla. E a quel punto provava vergogna della propria curiosità e del suo interesse per lei. Dopotutto, era solo una donna. Ma tre stanze e due pasti al giorno non erano abbastanza per tenere occupata una donna che era stata schiava in una grande casa e aveva lavorato dall'alba a mezzanotte. Un giorno che Wang Lung era molto impegnato col grano che stava crescendo e lo lavorava con la sua zappa giorno dopo giorno finché la schiena non gli si spezzava per la stanchezza, l'ombra della donna cadde sul solco sopra il quale stava piegato ed eccola là, con una zappa in spalla. «Non c'è niente da fare a casa fino a sera», disse brevemente. E senza una parola si mise al solco che stava alla sinistra di lui e cominciò a zappare con gesti regolari. Il sole picchiava su di loro perché era l'inizio dell'estate e dal viso di lei cominciò presto a colare il sudore. Wang Lung si era tolto la casacca e aveva la schiena nuda mentre lei lavorava con l'abito sottile che le copriva alle spalle e a mano si bagnava, aderendo al corpo come se fosse pelle. Lavorando insieme a ritmo perfetto, senza una parola, un'ora dopo l'altra, Wang Lung raggiunse con lei un'unione che tolse ogni dolore alla fatica. E lui non si era formato alcun pensiero, c'era solo quella consonanza perfetta dei movimenti con cui rivoltavano incessantemente quella loro terra verso il sole, quella terra che nutriva i loro corpi, di cui erano fatti la loro casa e i loro dei. La terra era ricca e scura e si apriva facilmente sotto le punte delle loro zappe. A volte portavano in superficie un pezzo di mattone, una scheggia di legno. Non era niente. In qualche tempo, in qualche era, corpi di uomini e donne erano stati sepolti lì. Vi si erano innalzate delle case che poi erano crollate e tornate nella terra. Così, anche la loro casa un giorno sarebbe tornata nella terra e i loro corpi. Ognuno aveva il suo turno sulla terra. Entrambi lavoravano, muovendosi insieme, insieme producendo il frutto di questa terra, senza una parola, in quel loro muoversi insieme. Quando il sole fu tramontato, lui raddrizzò lentamente la schiena e guardò la donna. Era bruna, proprio come il suolo. Gli abiti scuri e bagnati erano incollati al corpo squadrato. Spianò lentamente un ultimo solco, poi, alla sua solita quieta maniera, disse, rivolta all'aria silenziosa della sera: «Sono incinta». Wang Lung rimase immobile. Cosa c'era da dire? Si chinò per raccogliere un pezzo di un mattone rotto e lo lanciò fuori dal solco. Era come se lei avesse detto: «Ti ho portato il tè, oppure possiamo mangiare». Le sembrava una cosa tanto normale, ma per lui. Non riusciva a dire cosa fosse per lui. Il suo cuore si gonfiò e si bloccò come se all'improvviso avesse raggiunto un limite. Bene, Era il loro turno sulla terra. D'un tratto prese la zappa dalla mano della donna e disse, la voce densa in gola, basta adesso. La giornata è finita. Lo racconteremo al vecchio. Poi si incamminarono verso casa, lei mantenendosi qualche passo alle sue spalle, come si conviene a una donna. Il vecchio era sulla soglia, in attesa della cena che adesso, poiché c'era in casa la donna, non si preparava più. Era impaziente ed esclamò: Sono troppo vecchio per aspettare il mio cibo fino a quest'ora. Ma Wang Lung, passandogli davanti per entrare nella stanza, disse: È già incinta. Cercò di dirlo con noncuranza, come si potrebbe dire oggi ho seminato il campo a Occidente, ma non ci riuscì. Pur parlando a voce bassa, gli parve di aver gridato quelle parole più di quanto non fosse stato. E il vecchio sbarrò gli occhi un istante, poi comprese e ridacchiò. Esclamò, rivolto alla nuora che stava arrivando, quindi ci sarà il raccolto. Non riuscì a vedere nel crepuscolo il viso della donna, che rispose impassibile. Ora preparo da mangiare. Sì, mangiare, mangiare, disse impaziente l'uomo, seguendola in cucina come un bambino. Come il pensiero di un nipote gli aveva fatto dimenticare il cibo, ora il pensiero del cibo che lo attendeva gli fece dimenticare il nipote. Ma Wang Lung sedeva su una panca accanto al tavolo nel buio e posò la testa sulle braccia incrociate. Da quel suo corpo, dai suoi lombi, la vita.